purtroppo l'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto anche in casi eclatanti durante, fin dalle prime volte che la NATO è intervenuta, quando è stata bombardata l'ambasciata cinese a Belgrado. Quindi purtroppo la designazione degli obiettivi lascia sempre qualche incertezza. Direi più in generale che un'operazione che si basa esclusivamente su attacchi aerei come quella che stiamo conducendo in Libia è comunque difficile da portare avanti senza avere sul terreno degli osservatori, degli indicatori di obiettivi che possano aiutare i piloti a non commettere questi errori. Senta, ma è possibile, cioè non possiamo escludere che anche aerei italiani possano aver fatto parte di questi raid? Questo non lo so, certamente ultimamente gli italiani si sono integrati in quello che è il dispositivo aereo messo in atto dalla NATO in tutti i settori, quindi non saprei dirla. Diciamo non lo possiamo sapere perché non vengono date i particolari. Le nazionalità degli aerei che partecipano all'operazione. Però visto che ci siamo anche noi, insomma, possiamo anche possiamo considerarci comunque in parte corresponsabili, perché ovviamente c'è una partecipazione generale dell'Italia a questo tipo di operazioni, quindi se ne prendono adesso le colpe, ma speriamo in futuro di prenderci anche qualche piccolo vantaggio che potrà derivare all'Italia dall'aver partecipato a questa operazione, vuoi per quello che riguarda i dividendi, chiamiamoli così, del petrolio, vuoi quelli che potrebbero essere futuri danni di guerra imposti alla Libia da pagare alle nazioni che hanno partecipato alle operazioni militari. Senta, ora pare che si profili, ma questo è più un termine politico, la deadline di settembre. Oggi sentiremo anche il Presidente del Consiglio che dirà, cioè la partecipazione dell'Italia, perché la Lega dice dobbiamo ritirarci. Sì, sono considerazioni politiche, però sono fattibili dal punto di vista militare? Ma guardi, non mi sembra che ci siano segnali positivi per quello che riguarda una prossima resa di Gheddafi. È solo con una resa di Gheddafi che potrebbe avere un senso ritirarsi dalle operazioni, se no, per quello che dicevo prima, anche quei vantaggi possibili di sedersi a un tavolo della pace reclamando diritti per aver partecipato alle operazioni potrebbero venire sminuiti. Quindi voglio dire, fissare una data non è possibile, cioè la data è finché non c'è Gheddafi. Direi che è controproducente, così come è stato controproducente per l'Afghanistan che il presidente americano abbia indicato senza termini alternativi il ritiro delle truppe per il 2013. Questo ai talebani ha fatto capire che basta resistere fino al 2013 e poi il campo sarà più libero per quelle che possono essere i loro traguardi. Sì, questo è un problema generale della questione dei rapporti dei militari e la politica, perché poi voi dipendete anche dalla politica, dai soldi, per esempio, che la politica. Non c'è possibilità di condurre delle operazioni militari senza che ci sia completo accordo con il governo dei paesi che decidono questi interventi. A questo proposito, visto che lei nella carriera, lunga carriera, ha comandato anche il Comando Operativo Interforze, cioè quell'organismo che coordina tutte le missioni militari all'estero, il discorso di dire risparmiamo sulle missioni, che fa sempre per esempio la Lega, adesso si devono trovare soldi per la riforma fiscale, è un discorso Guardi, questo è un discorso che potrebbe avere un senso, perché purtroppo, per quello che ho visto io nella mia esperienza, anche quando l'Italia ha partecipato intensamente e con molte truppe e con grandi spese a queste operazioni, il ricavato dei dividendi della pace, chiamiamoli così, non è stato mai particolarmente soddisfacente. Se pensiamo a quello che abbiamo dato per la pacificazione dei Balcani e quanto poco l'Italia abbia potuto ottenere sotto l'aspetto economico-commerciale in quei paesi, con condizioni che ovviamente uno ritiene debbano essere di privilegio, visto che ha speso tanto per portare a termine queste operazioni. Quindi ritengo che forse si potrebbe anche rivedere l'entità di quello che è il nostro contributo alle operazioni, però c'è un però. Noi in Europa, gli Stati Uniti sono fuori discussione, ma in Europa noi siamo in competizione con Germania, Francia e Gran Bretagna. Quindi se riduciamo il nostro contributo, questa competizione non ha più luogo. Perché poi uno potrebbe obiettare che tra i dividendi di questi interventi c'è anche una pacificazione di un'area di guerra, insomma, per esempio. Certamente, che non ha magari prezzo, insomma, non è quantificabile nel prezzo. Però non credo che se questo discorso noi lo facciamo con i nostri vicini francesi e con gli anglosassoni venga trascurato. Quello che fanno loro ha sempre anche un fine economico che in qualche modo poi viene reclamato al termine delle operazioni. Intanto io, generale, la ringrazio, alla prossima, grazie per essere stato con noi. Generale Carlo Cabigiosu, voglio ricordare, consulente della NATO, consigliere scientifico della Fondazione ICSA, insomma ci ha aiutato a capire qualcosa anche dal punto di vista militare di qual è l'approccio di questa guerra in Libia. Io la chiamo così, insomma, guerra, intervento militare, chiamatelo come volete, guerra in Libia. Ci fermiamo dopo la pubblicità al meteo, parliamo di rifiuti e di, indovinate che città? Napoli. Ebbene sì, il sindaco De Magistris ha detto: in 5 giorni sarà tutto risolto. Il 5° giorno è oggi e di risolto non c'è nulla. C'è un problema di un comune identificato che doveva raccogliere rifiuti temporaneamente di Napoli. Questo comune dice: col cavolo, insomma, noi raccogliamo, E c'è chi dice: ma De Magistris, dovevi indicare 5 giorni, tutto risolto, eccetera. Il precedente è quello di Berlusconi, che aveva detto: risolviamo tutto in 8 giorni, e poi tutti a fargli le pulci che non l'ha risolto. Insomma, si risolverà questa emergenza di Napoli? Di questo parliamo, di rifiuti, tra poco. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. 24 mattino. Allora, alle 8:36 minuti parliamo dei rifiuti e di Napoli. Perché? Perché il sindaco De Magistris ha detto: in 5 giorni risolveremo la situazione. Oggi i giornali, Repubblica soprattutto, dice: la trincea di De Magistris, il mio piano sta naufragando, ma bloccherò questo sabotaggio. Che succede? Siamo sempre lì, rifiuti e Napoli, il nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Intanto saluto Marco De Marco, il direttore del Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno, direttore. Eccoci buongiorno, qua. Buongiorno. Voglio salutare anche il sindaco di Acerra, Tommaso Esposito. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a tutti. Dove pare, nonostante le proteste, 4.000 tonnellate, giusto, siano state conferite lì, nonostante le vostre proteste? No. Ieri è stato conferito soltanto 400 tonnellate. 400 tonnellate di FUT, di frazione umida tritovagliata. Ho aggiunto uno zero. Zero. Capita. 400 tonnellate, ho letto male ovviamente. Allora, forse adesso il vice sindaco di Napoli, adesso è occupato, ma lo troviamo, Tommaso Sodano, vice sindaco, assessore all'ambiente, lo stiamo cercando. Intanto la domanda è questa, la pongono tutti i giornali, e vorrei chiederla al direttore De Marco. De Magistris ha compiuto un errore a dire: entro 5 giorni risolviamo la questione, poi cerchiamo di capire perché, per come, il sindaco di Caivano che si è opposto a un sito, si sta opponendo in tutti i modi. Però De Marco, è stato un errore dire: in 5 giorni vi risolvo la situazione? Rispondo con un monosillabo: sì. E se vuole spiego perché. Sì, perché la situazione di Napoli era nota a tutti, e quindi presumo anche al sindaco De Magistris, che qui ci fossero interessi, resistenze, corporativismi, boicottaggi possibili, proteste incontrollabili, resistenze, cioè questo lo sapeva perfino l'uomo della strada. E dunque, in una situazione così come Napoli, complessa, complicata, è stato un errore. Insomma, allora De Marco, ecco, si fermi però qui, perché lo voglio chiedere anche Marco De Marco, il direttore del Corriere del Mezzogiorno, c'è anche il sindaco di Acerra, Tommaso Esposito, siccome l'abbiamo raggiunto, il vice sindaco di Napoli, Tommaso Sodano. Vice sindaco, buongiorno. Buongiorno. Con la delega all'ambiente. Il direttore del Corriere del Mezzogiorno, De Marco, alla domanda: è stato un errore da parte di De Magistris annunciare in 5 giorni risolviamo tutto? Risposto con un monosillabo: sì. Ora poi analizzeremo, lo dico anche a lei, il perché e il per come non si è riusciti in questa missione, visto che il 5° giorno scade oggi. Ma anche secondo lei è stato un errore, vice sindaco? Ma innanzitutto non abbiamo detto che in 5 giorni avremmo risolto il problema. Qui io credo che c'è bisogno anche di un limite rispetto alle considerazioni, ai giorni in cui ci siamo insediati. Noi ci siamo insediati una settimana oggi e abbiamo trovato 2.000 tonnellate di rifiuti per strada. Dopo l'accordo in prefettura, sollecitato da noi, perché qui in Campania le istituzioni erano dormienti, e la precedente e la regione e la provincia. Abbiamo stimolato un incontro, c'è stato venerdì, si è fatto, ci hanno assicurato che gli impianti non sono di competenza del Comune di Napoli, il Comune deve provvedere all'igiene urbana, alla raccolta e lo spazzamento, che ci avrebbero dato le quantità per il conferimento. 2000 tonnellate per strada, sostanzialmente nei 5 giorni eravamo in grado di portarle via. Questi sono quindi, i 5 giorni che sono state. Di pulizia della città, sì, non sì, sì. Problema. No, non risolvere tutto il problema, però questo problema contingente, dice, in 5 giorni li mettiamo a Caivano, questo è stato detto praticamente. Non ci sto a questo tipo di critica, perché chi vi parla è stato il primo a denunciare il fallimento del sistema di gestione dei rifiuti in Campania. Questo è vero, vice sindaco, questo è vero. La questione è che questa, ho detto, non è che pensavate certo di risolvere un problema pluridecennale in 5 giorni, ma questa situazione contingente, il sindaco ha detto, in 5 giorni portiamo tutto a Caivano, portiamo tutto di qui. Noi abbiamo fatto per la prima volta la nostra parte, e sì, questo forse bisognerebbe anche riconoscerlo. Abbiamo aperto un sito di trasferenza nella città di Napoli la giornata di sabato, ci siamo insediati lunedì 13. In tempo di record abbiamo allestito la nostra piazzola. Stamattina una nuova ordinanza, avviamo i lavori per l'ampliamento di una seconda isola di trasferenza. Dove? Sempre nella città di Napoli. Okay. E quindi a dimostrazione che Napoli non chiede solo agli altri, ma si mette all'opera per essere autonoma. Chiaro che a questo si aggiunga anche quello che abbiamo avuto nei quartieri del centro storico. L'ho denunciato ieri mattina al questore, al prefetto. Noi siamo stati bloccati per 2 notti all'interno del centro storico con gruppi di, diciamo, facinorosi che hanno incendiato cassonetti, fatto barricate, sì, e hanno impedito anche ai lavoratori delle aziende che fanno la raccolta all'interno della città di poter operare. Cioè, tutto questo è documentato e è già in possesso. Si pare anche ieri, le agenzie dicono, in via Imbriani ieri e in via Toledo, per esempio, in alcune zone sono stati rovesciati dei cassonetti, la gente è un po' inferocita. Però comunque, vediamo un po', direttore De Marco, e poi dopo andiamo anche al sindaco di Acerra. È giusta, insomma, la posizione del vice sindaco di Napoli, De Marco? Beh, io conosco il vice sindaco di Napoli per quello che ha fatto in precedenza, e allora voglio essere molto chiaro. Che questa amministrazione in una settimana di tempo abbia messo in moto un meccanismo carico di speranza, questo è fuori di dubbio. C'è un attivismo delle istituzioni che altrimenti non ci sarebbe stato. Sodano in modo particolare penso che abbia sollecitato la regione, la provincia, insomma decisioni che languivano, finalmente sono prese, e questo è sicuramente indiscutibilmente un atto dovuto alla nuova amministrazione. Però che ora si dica che quei 5 giorni non sono stati pronunciati, che ora si definiscono facinorosi gli abitanti napoletani che in passato erano sostanzialmente degli eroi civili, beh, io questo lo trovo francamente molto molto discutibile. La verità, adesso Dano lo sa, è che la situazione era difficile prima ed è difficile oggi, solo che prima, quando si era all'opposizione, si sparava a destra e manca. Oggi si incomincia a parlare di facinorosi, di boicottaggi, e no, perché questo è lo stesso linguaggio utilizzato dalla Iervolino, da Bassolino. Quindi io non vorrei che il nuovo inizio corrispondesse esattamente alla recente fine delle amministrazioni. Accidente, se ci fosse a fondo peggiore di questo, darvi dei bassoliniani. Molto ingeneroso, direttore, e poi non è nel mio linguaggio, io non ho mai parlato, quando Solino e l'Erbolino dicevano che i camorristi erano dietro le proteste popolari ad Acerra o a Caivano o altrove. Io sto dicendo una cosa ben diversa, direttore. Se vuole venire con me qualche notte nei quartieri di Napoli, vediamo dove sta la camorra, chi la vuole spezzare veramente, e probabilmente se gli organi di stampa facessero più attenzione a quello che sta avvenendo in città, hanno capito che non c'è più spazio per la camorra nel ciclo dei rifiuti a Napoli, e ci stanno boicottando. Io non faccio la vittima, andiamo avanti, ne riparleremo tra qualche mese, intanto poi vedremo se abbiamo le idee chiare oppure no. Intanto, però l'idea è che io prima protestavo e oggi governi, questo non lo accetto. Non l'accetta, va bene, ma questa è chiara la sua replica. Voglio andare dal sindaco di Acerra, perché insomma il sindaco di Acerra è molto attento, osservatore. Allora, Tommaso Esposito, che fate? È giusta l'idea di protestare, per esempio, come fa Caivano col sindaco, che ha detto: ma che è sito di conferenza dei rifiuti qua? Io blocco tutto, altro che. Ma noi protestiamo pure noi, le dico subito perché. Uno, innanzitutto non credo nei proclami risolutori in tempi rapidi di questioni problematiche e complesse come quella dei rifiuti. Io sono tra quelli che ha protestato insieme a Tommaso Sodano, mi trovo adesso a governare la città, le dico subito che ci ho messo un anno e mezzo per avviare la raccolta differenziata, in un terzo della città dove si fa la raccolta differenziata ho raggiunto rapidamente il 75%, nell'altra parte della città non riesco ad avviarla perché puntualmente dal venerdì al lunedì mi trovo con il blocco del conferimento dei rifiuti presso gli impianti. E quindi voglio dire, i problemi si risolvono con determinazione, ma anche... Ma perché? Cioè chi fa questo blocco? No, i tempi e il blocco sono dovuti all'incapacità degli impianti di ricevere la spazzatura. Ecco. Il problema fondamentale, guardi, è che lo si ribadisca per sempre che ancora non c'è un piano di rifiuti credibile ed attuabile avviato nella regione Campania. Le dico che ad esempio nella provincia di Napoli non sono stati ancora realizzati gli ambiti di conferimento e questo è un grosso problema perché non si sa ad esempio i comuni come devono mettersi insieme per individuare i siti dove fare la discarica, dove attivare diversi sistemi di raccolta dal compostaggio al sito di trasferenza. Questo è un problema serio. Ora ci troviamo in emergenza, ognuno fa la propria parte, ma non c'è differenza tra il comportamento del sindaco di Caivano e il sindaco di Acerra. Qua si tratta di territori che con grande consapevolezza hanno dato alla soluzione dei problemi come Acerra e Caivano e ora si ritrovano riversati. Allora andiamo alle informazioni sul traffico. Poi qualche ascoltatore che ovviamente ci chiamano da Napoli, molti ma non solo, anche molti critici del nord che dicono basta questo problema dei rifiuti a Napoli, vuol dire che non siete in grado di gestirlo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora Marco da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Senta, io volevo dire che ha fatto male che Magistris a promettere in 5 giorni di risolvere il problema dell'immondizia a Napoli, perché se non c'è riuscito Berlusconi, che aveva a disposizione l'apparato adesso... governativo, l'esercito, come faceva? Marco, mi scusi, ricostruiamo un attimo, non è che, giusto per correttezza, non è che ha detto in 5 giorni risolvo il problema dei rifiuti a Napoli, perché quello manco San Gennaro, insomma, ha detto risolvo il problema attuale, cioè tutte le tonnellate a terra, no? Marco, non il problema di quello definitivo, cioè, ma questa emergenza. Marco, dica Marco. Io avrei un'idea, siccome secondo me da napoletano io le dico che dietro a questo problema non c'è solo la camorra, ma c'è la camorra e la politica. È un intreccio, sì, camorra sì. E politica. Per sconfiggere questo intreccio ci sarebbe un sistema semplicissimo. Oh. Per me dare agli abitanti dei paesi che ospiteranno le discariche l'esenzione dalle bollette della luce, del gas e dell'acqua. Ma perché? E vedrà che come non ci saranno più le sommosse. Ma perché? Grazie. Perché uno deve fare l'esenzione fiscale? De Marco, perché questa idea che bisogna fare l'esenzione, cioè uno non paga la bolletta perché si prende i rifiuti, ma perché? No, insomma, l'idea in sé c'ha un fondamento, è prassi che quando bisogna decidere... La compensazione ambientale esatto, per chi... Esatto. Questo mi pare il minimo, se io comune accetto sul mio territorio una discarica dove conferiscono anche altri comuni, è ovvio che gli altri comuni mi devono pagare un prezzo e questo prezzo solitamente nei paesi civili viene individuato in infrastrutture, in servizi, dallo stadio all'ospedale o anche a certo tipo di sanzione come quella indicata. Io lo trovo assolutamente uno strumento si può fare, sono in questo incentivo. Il problema è che per esempio diceva il sindaco di Acerra che lì queste compensazioni non le hanno viste e hanno l'inceneritore che serve tutta la regione, che serve tutta la regione e che se non ci fosse ci costringerebbe a navigare tutto nell'immondizia. Sentiamo Enrico da Napoli, buongiorno. Poi su questa cosa dell'inceneritore e su questa proposta ho un paio di domande al vice sindaco di Napoli. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una precisazione. Mi vorrei chiarire che non sono un politico, sono un semplice autista che stando spesso al nord abbiamo dato e stiamo dando modo e possibilità di farci litigare quotidianamente. Allora, il problema dei Magistris, ci possiamo pure dare un pochettino di tempo perché vedendo le altre amministrazioni, cioè cosa hanno fatto, vedo che mo 5 giorni una parola sbagliata di Magistris non dovrebbe comportare a nulla. Diamogli un po' di tempo. Sì. Diamogli tempo, tutto il tempo che si vuole, è che lui ha detto 5 giorni risolvo queste cose. È il nostro, però se saremmo stati, cioè, un pochettino più attenti a leggere i giornali e vedendo che effettivamente il sindaco ha detto, cioè, risolverò il problema delle spazzature, della spazzatura in strada, della strada di Napoli. No, allo smaltimento che da decenni... No, infatti, ha detto questo, però sono 5 giorni, sono oggi, questo problema non è stato risolto. Ma ripeto, anche perché a Caivano non hanno voluto questo sito. Però, vice sindaco Sodano, la questione dell'inceneritore, lei è contrario, mi sembra di capire, De Magistris è contrario all'inceneritore. Ma noi non abbiamo bisogno della città di Napoli, con il nostro piano possiamo farne tranquillamente a meno. E poi vorrei sempre ricordare che l'impianto di inceneritore di Napoli non c'è ancora neanche il bando, non è stata ancora fatta la gara, ci vorrebbero 5 anni, certo non possiamo stare 5 anni in questa condizione in attesa della risoluzione. Ma qual è il piano? Perché ieri De Magistris, credo da Gad Lerner, ha detto un piano, e ce lo dica lei. Noi in verità abbiamo già fatto prevedere una delibera, insomma, quindi una delibera approvata giovedì scorso, la prima delibera della Giunta, come avevamo annunciato, che prevede di estendere dal mese di settembre, partiamo a luglio, gioco l'informazione, la raccolta differenziata porta a porta ad altri quartieri di Napoli, altri 5 quartieri di Napoli, arrivando a trattare 325.000 abitanti. Nei quartieri di Napoli dove si fa la raccolta differenziata siamo già al 70% di raccolta differenziata, quindi non è vero che poi Napoli non sappia farla o non voglia farla. A fianco a questo noi avremo 3 impianti per il compostaggio nella città di Napoli, zona est, zona ovest e zona nord di Napoli. E prevediamo impianti di trattamento meccanico manuale per a valle della raccolta differenziale, per cui insomma noi riusciamo ad avere una nostra autonomia. Il problema nostro è quello della transizione tra, e qui forse coglie le contraddizioni Marco Di Marco, la fase di transizione che non ho determinato io, che non ho condiviso e che credo sia abbia in sé molti errori, ma ha gli impianti che noi oggi conosciamo. C'è un impianto di incenerimento che purtroppo, come sa bene il sindaco di Acerra, funziona male, è a scartamento ridotto e non dà tutte le garanzie, su cui bisognerebbe che, insomma, anche qui il governo, probabilmente per avendolo gestito e avendolo nella proprietà come protezione civile, desse maggiori garanzie. Ma dunque la fase di transizione bisogna governarla con gli impianti che ci sono. Senta, ma le chiedo vice sindaco, visto che 5 giorni, questo almeno si può dire, forse è stata un po' un'imprudenza dire in 5 giorni togliamo, si possono fare un'altra previsione? Lei se la sente di fare una previsione adesso, dire quanto ci vorrà per togliere questa situazione contingente? No, guardi, questa situazione, ma il problema è che togliere 2300 come ce ne sono adesso, ma 5 giorni ci vogliono. Il problema è che noi, che diciamo 5 giorni, se io da domani mattina so dove andare a sversare. Il problema nostro è questo. Stamattina e stanotte abbiamo finito alle 2 in prefettura, stamattina il Presidente della Regione dovrebbe fare un'ordinanza applicando una normativa, niente di straordinario, quello che gli consente la legge, ma glielo consente al gennaio di dove? Ma per metterli dove? Ma insomma, noi chiediamo innanzitutto che nell'auspicio che però giovedì il governo sblocchi questi flussi regionali, perché anche qui è stato fatto molto... Ah, mandarli nelle altre regioni? No. È stato fatto... Vabbè, ma guardi che la cosa curiosa, che forse sarebbe anche questo il caso di approfondire, i trasferimenti fuori regione avvengono tra operatori privati. Se c'è un privato che tratta dei rifiuti e ci guadagna, può andare fuori regione tranquillamente. È curioso che il TAR del Lazio abbia detto che invece quando è il pubblico non può andare fuori regione se non ci sono accordi fra regione. Quindi insomma anche questo dovrebbe fare un po' di flessibilità. Su questo no, i rifiuti speciali dal nord verso il sud continuano ad arrivare, non è che infatti questo è il tema finale. Abbiamo un minuto. Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno. A parte che molti messaggi ci dicono, io glieli riferisco perché questo è: cari napoletani, il problema siete voi, una cosa che a me fa arrabbiare molto, ma d'altronde li devo riferire, De Marco, e quindi questa è la prima cosa. E poi la questione che si pone il problema, ci aiutino anche le altre regioni. Adesso il vice sindaco ci dice che sono accordi tra privati, quindi altri privati che accolgono in altre regioni la spazzatura napoletana, però il dato di fatto è questo: perché l'Italia dovrebbe ancora aiutare le altre regioni? L'Italia deve aiutarci perché noi siamo nei guai, e quando si è nei guai bisogna aiutarsi anche se si sono commesse molte colpe. Noi siamo pieni di colpe, siamo pieni di immondizia. Io le garantisco che camminare per strada vuol dire ammorbarsi dall'odore pessimo che si respira in ogni angolo della città, ed è una situazione drammatica. In questa situazione noi colpevolissimi lo siamo, ma gli altri ci devono aiutare. Detto questo, dobbiamo aiutarci prima noi. E da quanto ho capito, quello che dice Sodano è molto semplice: non possiamo chiedere alle regioni leghiste di aiutarci se non siamo capaci noi stessi di convincere le province campane a darci una mano. Allora, Caldoro non può gridare contro la Lega e non esercitare una sua... Il potere locale innanzitutto, no? Il potere sulla campagna. Cioè, i poteri ci sono, e quindi prima di gridare a Bossi pessimo eccetera eccetera, si convincono le altre province ad accogliere parte dei nostri... Qui mi devo fermare, grazie a tutti, con Alessandro Longone, Elisabetta Fusconi in redazione e Pietro Lacorte in regia. Che dire, per la linea Oscar Giannino c'è il sindaco di Roma Gianni Alemanno, ospite, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.